E niente, si muore, di freddo si muore, punto e basta. Un'ora e mezza dopo la temperatura è scesa ancora, si gela. Prima di rientrare facciamo tappa a Cesano Boscone, nel Milanese. Ci sono 7 rom che vivono in 2 baracche e non hanno nulla. Ad aspettare i volontari c'è Ana, stretta in un cappotto troppo leggero. Le servono vestiti caldi per le sue bambine che hanno freddo. 3 anni, 5 anni, una tra 5. Lì c'è un po' più grande da bambino. Casomai passiamo giovedì prossimo? Bene. È molto tardi, tocca tornare indietro. Salutiamo Ana. Ciao, tanto a voi. L'avete bisogno? Grazie mille. Un numero quando ti servono volete... ancora coperte? Se avete ancora, va bene che la mettiamo così in baracca. Ma dove sono le baracche? In fondo qua dove c'è la tipo leni. E ci chiediamo che sonno avranno i suoi figli. La risposta che immaginiamo non ci piace affatto. Ciao, tanto auguri. Ciao. E grazie per tutto. Grazie mille. Italia in controluce. Il 2011 sarà l'anno elettorale in molte grandi città: Milano, Torino, Bologna, Napoli. Partiamo da Milano. Qui la sfida dell'Expo 2015 è troppo evidente, ma finora si è parlato di organigrammi, terreni, meno di opportunità. Paolo Piacenza ne ha parlato con Piero Bassetti, cattolico, riformista, indipendente, già assessore, primo presidente della regione, deputato, presidente della Camera di Commercio. Si sta dimenticando una proposta di contenuto, cioè non ci si presenta al mondo, se si vuole essere presenti nel mondo, senza un'idea. Ora, il tema dell'Expo è bellissimo, nutrire il pianeta, ma non è stato proposto ai milanesi come tale. Viene proposto come una specie di spettacolo di dubbio interesse, collegato con questioni di aree e di rendite patrimoniali, ma nessuno a Milano è stato mobilitato per fornire delle idee su come si può nutrire il pianeta. Nel 2009 Marco Alfieri, nel suo libro La peste di Milano, ha raccontato una Milano profondamente in crisi nel progettare il futuro. Una Milano dominata da feudatari piccoli e grandi che sono un po' intenti a spartirsi la torta dell'Expo. Se per torta si intende una torta di rendite fondiarie, può darsi, o di appalti, può darsi che ci sia. Ma se per torta si intende la partecipazione a un avvenimento storico, a una performance in cui si sfida la città a dare prova della sua capacità culturale, del suo modo di collocarsi nel mondo, qui di torta per ora non ce n'è. Perché io la sfido chiunque a rispondere a domande che non siano quelle se lo faremo a Rho o dove lo faremo, se ci sarà la via d'acqua, ma noi ci stiamo occupando del contorno, ecco, del feudo, direi degli scenografi, ma non della partitura della pièce. Quali sono invece le opportunità che l'Expo potrebbe aprire a suo avviso? Ma secondo me è proprio quello, il superamento del feudalismo, della peste, come l'ha chiamata Alfieri. Cioè, una città si ritrova se le viene proposto un obiettivo comune, un escape, come sarebbe detto una volta. Se noi fossimo sfidati a trovare la soluzione per nutrire il pianeta e a fare la dimostrazione di questa nostra capacità come l'essenza del Expo, che vuol dire esposizione, allora noi verremo sottratti dal dubbio di chiederci se la faremo con l'autostrada diretta o indiretta, e invece cominceremo a vedere come per esempio l'agricoltura padana, come la ricerca bioingegneristica della nostra città, come le nostre conoscenze diciamo storico, demografiche, politiche di com'è il mondo, quali problemi il mondo ha rispetto al nutrirsi, questioni anche dibattute come OGM sì, OGM no, verrebbero tutte in un certo senso fuse e finalizzate in una grande riflessione comune. C'è un problema di classe dirigente dietro a questo nodo? Il punto centrale è questo, intendiamoci su cos'è la classe dirigente. Se la classe dirigente è un sindaco che crede di essere la Madonnina, perché è messa in cima a una struttura come il Comune, che tra l'altro non rappresenta più Milano, perché Milano è una città di 4 milioni di abitanti e il Comune ha 1 milione 300 mila abitanti, e la sua classe dirigente sarebbero lei e il Consiglio Comunale, è chiaro che lì proprio non c'è da aspettarsi niente. Se invece si pensa che la classe dirigente di Milano non è quella che è stata eletta in Consiglio, ma è quella che realmente dirige o potrebbe dirigere la potenza di una metropoli come Milano e il suo modo di porsi, per esempio, di fronte a un tema come quello del nutrire il pianeta, allora si scopre che non si tratta di andare a reclutare soltanto Armani o Veronesi perché hanno una presenza, diciamo, di notorietà, ma si tratta di sfidare intorno a un impegno tutti coloro i quali hanno qualcosa da proporre. Certamente non si può pensare di trovarne 5 del PDL e 6 del PD e di credere di fare la classe dirigente così. Allora cosa c'è alla radice di questo fallimento della dirigenza politica milanese? Secondo me la prima radice è che la realtà di Milano, cioè quella città metropoli locale a cui facevo riferimento prima, non ha un contenitore istituzionale in cui può proporre e porsi i problemi di selezione della classe dirigente, di finalizzazione, eccetera. E questo è il grande mio rimprovero a questa amministrazione, che continua a credere di poter gestire Milano dal contenitore vecchio del comune. Il secondo problema è politico. Nel senso che non si può pensare di gestire Milano come si gestisce l'Inter, perché se ha un po' di soldi per fare la campagna elettorale, pensare di aver acquisito la reale leadership. E questo coinvolge anche le cosiddette forze politiche, ma qui il problema, lo sappiamo, vale anche per Roma, cioè l'Italia ha oggi un drammatico problema di canali di selezione della sua classe dirigente. Nella prima Repubblica erano i partiti, adesso è soltanto, diciamo, gli spot o la presenza televisiva, che non è uno strumento selettivo. Il mio blog lo trovate su radio24.it, poi Facebook Radio 24 Italia in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. La seconda edizione la ascolterete oggi alle 13:30 su Radio 24.